il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Raccogliete le vostre riflessioni o voi che ascoltate, perché questo è il nostro appuntamento di sempre, mio e vostro, con le notizie della settimana, con le vostre opinioni libere sui fatti, tanti fatti che si susseguono in una settimana, ovviamente qua riusciamo giusto a trattarne qualcuno, quello che più vi sta a cuore, quello che più vi ha colpito e vi interessa. I fatti sono come sempre moltissimi, il numero ve lo dico dall'inizio, numero verde, potete chiamare liberamente, ovviamente se doverlo, gratuitamente, 800 24 00 24. Quanti fatti anche questi giorni? Devo dire che al top della hit parade delle notizie di questa settimana effettivamente c'è stata anche Non ci sono più le mezze stagioni. Sono due settimane, diciamo, che ai vertici della classifica delle notizie più rimbalzate, con quei famosi baci che partirono da questa trasmissione qua due settimane fa, se ne è parlato ancora praticamente fino a ieri. E ringrazio le ascoltatrici, gli ascoltatori, soprattutto facebookiani e facebookiane che sono tanto intervenuti su questo argomento sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Vi ho letti uno per uno, una per una, dall'inizio alla fine, anche dal contrario a risalire su, insomma. Grazie per questo. Le notizie naturalmente sono anche molte altre. Infatti vi avviso che a momenti potrebbe esserci, insomma, magari tra mezz'ora, magari tra un'ora, la sentenza relativa al processo Mills in cui è imputato Silvio Berlusconi. Noi abbiamo anche naturalmente un'inviata al Tribunale di Milano, quindi se dovesse avvenire che questa sentenza arriva prima della alla fine Non ci sono più le mezze stagioni, naturalmente ci collegheremo e vi aggiorneremo proprio in tempo reale. Poi ieri è stato un grande giorno per il governo Monti, perché ovviamente si trova a far parte di questo esecutivo tecnico, perché sono stati celebrati 100 giorni di questo esecutivo, con Monti che ha detto, molto ottimista e gagliardo potremmo dire, diventeremo un modello per l'Europa, da problema emergenza che eravamo, diventeremo un modello. Poi sempre il governo ha varato ieri il decreto sulle semplificazioni fiscali, lasciando fuori, ma così, diciamo, non così irrilevante, non si è capito se si è persa per strada, se a volte uno dice ho dimenticato le chiavi a casa della macchina, può succedere, no? Può succedere a tutti, può succedere anche al governo. Ecco, diciamo che è saltato il fondo taglia tasse, ci doveva essere un fondo ricavato dal recupero dell'evasione fiscale per cercare di ridurre un po' le tasse. Ecco, questa cosa è saltata, diciamo, non ha fatto piacere più. Poi anche se Monti ha spiegato non dobbiamo creare troppe aspettative, allora non ditelo neanche prima, perché uno, diciamo, finalmente con la lotta all'evasione fiscale qui si riducono un po' le tasse, che è sempre naturalmente una cosa estremamente meritoria e doverosa, la lotta all'evasione fiscale, però se qualche soldino poteva andare a, diciamo, abbassare le tasse non sarebbe dispiaciuto. E sempre a proposito di questo esecutivo dei ministri, sapete che sono stati pubblicati online i redditi dei ministri, non so se avete avuto modo, ma comunque la gran parte evidentemente è andata sul sito del governo, perché è andato in tilt in questi giorni. Tanti avevano questo, come possiamo dire, un voyeurismo tecnico, ecco. E poi ancora sono stati pubblicati anche alcuni stipendi dei top manager di Stato e non solo, dai quali risulta che il capo della polizia Manganelli è quello che in assoluto prende di più, addirittura uno stipendio superiore al presidente americano Obama. Si vede che qui la situazione è particolarmente difficile. Poi la vicenda dei marò italiani, sono stati uccisi due pescatori indiani, è una questione di grande tensione, oltre che naturalmente la morte di due uomini, ma anche di tensioni di diplomazia internazionale tra Italia e India. Vedremo come va a finire. E i tre soldati morti in Afghanistan in fiamme, come si usa dire, da quando hanno bruciato effettivamente alcuni soldati americani ufficiali in una base americana il Corano, che forse non è mai il momento giusto, tantomeno questo, diciamo. La Siria sempre con questo massacro quotidiano di civili. Per quanto riguarda l'Italia, ritorniamo, si continua la trattativa sul mercato del lavoro con varie tensioni anche qui tra sindacato, parti sociali, governo eccetera eccetera. Lici sulla Chiesa, sembra che il governo abbia deciso con un emendamento di far pagare alla Chiesa l'ICI, vecchia ICI, attualmente IMU sugli immobili commerciali. È stato dato un primo via libera al divorzio breve, quindi non si tratterà più di 3 anni di aspettare tra separazione e divorzio, ma 1 anno. Mi piacerebbe sapere anche su questo argomento cosa ne pensate. Ci sono stati alcuni commenti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, anche se per la gran parte, insomma, si è parlato di questi baci, di tutte le polemiche a seguire. Prezzi record per la spesa quotidiana, la morte morte del premio Nobel Dulbecco, insomma, moltissime cose. Adesso non mi sto a disperdere tra le mille notizie, sceglietele anche voi. 800 24 00 24. Tra poco avremo anche il nostro opinionista estemporaneo che dirà la sua sui tanti fatti. Ci sono già ascoltatrici e ascoltatori al numero verde, ma come sempre non perdiamo il rito di confermarci perché non ci sono più le mezze stagioni anche questa settimana. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Dovete sapere, questo è una. Vengono dai dati della polizia provinciale di Pisa, che a Pisa ci sono dei nonni terribili che sfidano l'autovelox. Ci sono novantenni con praticamente. Col turbo sulla superstrada e pare che le patenti ritirate agli over 70 e anche fino ai 90 anni nel giro di 3 anni siano state 125 e sempre alla guida di bolidi. Che mistero c'è secondo voi dietro questo fatto? Poi quasi quasi lo chiederemo all'opinionista estemporaneo che oggi è, signore e signori, Giancarlo De Cataldo. Buongiorno caro Giancarlo, ti ho inseguito per diverso tempo, sei stato varie volte qui ospite, non ci sono più le mezze stagioni, sei sempre in giro per il mondo, fermati qualche volta che così ci facciamo una chiacchierata, no? No, sono sempre a lavorare, la verità. Lo sapevo, perché Giancarlo De Cataldo non ha una professione, ne ha 2, 3, 4, 5, è magistrato naturalmente a Roma, è scrittore, l'ultimo libro si intitola In giustizia, per l'appunto questo titolo, quindi un po' dentro la giustizia, un po' anche parlando di ingiustizia, anche attaccato, è traduttore, autore di testi teatrali, di sceneggiature, naturalmente il suo romanzo, sempre ricordato, è romanzo criminale. Giancarlo, io volevo chiederti però, appunto, domanda fondamentale in questo momento, secondo te com'è possibile che a Pisa i novantenni vanno sui superbolidi e sfidano l'autovelox? Beh, dipende da chi dichiara di esserci al volante. Ecco. Immagino che l'accertamento non sia stato fatto fermando nonna Belarda o nonno Sprint sul SUP. Credo che insomma sia avvenuto sul cartaceo e quindi lì dipende dalle dichiarazioni. Quindi quel piccolo escamotage che nipoti e figli dicono per non farmi levare i punti. Abbastanza diffuso il nostro paese di grande inventiva quando si tratta di aggirare la norma. Io che mi aspettavo, che mi immaginavo, quando ho letto questa cosa, immaginavo questi che sfrecciavano su queste macchine. È un bel soggetto per un film, però. Vero? Si accerta del furbo che manda il nonno a guidare e poi il nonno invece c'è davvero. Bene, sarebbe carina questa cosa, mi candido anche evidentemente per sceneggiature o cose del genere, insieme a Giancarlo De Cataldo, grande scrittore tra l'altro con questo suo ultimo libro. Ma un'altra domanda che volevo farti, molto importante e molto di attualità, come va a finire? Cosa? Processo Mills. Ma no, non chiedetelo a me, cioè, come dire, la sfera della giustizia esula dalla chiacchiera, o meglio dovrebbe esulare secondo me dalla chiacchiera. No, ma non per chiacchiera, non per pettegolezzo, perché un magistrato, cioè, un magistrato. E io non so cosa c'è in quelle carte, non ho fatto parte di quella giuria, quindi non posso assolutamente esprimere nessuna opinione. Andiamo a vedere. Benissimo, atteniamoci alla realtà che man mano si sviluppa, perché vi ho detto che potrebbe succedere anche nel corso di questa puntata, e se no lo sentirete sempre su Radio 24 gli aggiornamenti. Invece Giancarlo De Cataldo, essendo magistrato a Roma in Corte d'Assise, ha scritto l'ennesimo suo libro, perché tra le mille cose continua a scrivere Giancarlo, ed è questo un libro che tu praticamente hai trattato come un bebè, posso dire, no? Hai detto che l'hai cullato per 30 anni, è cresciutello. Questo diciamo. È uno slogan editoriale che fa un po' ridere, no? Cioè, immagina questo tra le braccia che io che culla questo libro, cioè, che scompare diciamo nel peso. Il senso è un diario che si è venuto costruendo nel tempo attraverso le annotazioni, le riflessioni, l'esperienza, i casi umani visti nelle aule di giustizia, come è cambiata la giustizia sotto i miei occhi e come è cambiato l'atteggiamento della gente nei confronti della giustizia. E io a un certo punto, c'è stato un giorno preciso in cui ho deciso che era venuto il momento di metterle fuori queste riflessioni. Ed è stato nella primavera del 2011, la primavera dello scorso anno, il giorno in cui alla Commissione Giustizia della Camera, mi pare, si discuteva il processo breve, e alla Commissione Giustizia del Senato il processo lungo. E allora lì mi è sembrato veramente che stessimo toccando un punto di paradosso, di irrazionalità quasi swiftiana. Ho detto, vabbè no, parliamone, posso farlo, visto che dobbiamo scegliere se fare contemporaneamente il processo lungo e breve, no? Come il letto di Procuste, allora anch'io posso dire la mia. E la tua la puoi dire anche, a proposito di lungo e breve, sulla questione del divorzio. Sai che erano una decina d'anni che in Italia si cercava di adeguarsi più o meno a quello che avviene nel resto d'Europa. Certo. Da noi finora, con la legge che è passata nel 74, tempi proprio di grande ardore, di battaglia in cui ci si credeva sia da una parte che dall'altra, aveva diviso l'Italia questo referendum sul divorzio, no? Poi era passata questa legge. Da allora sono trascorsi molti anni, questi tre anni a molti sono sembrati troppi, che separano appunto la separazione, scusate il bisticcio di parole, e il divorzio. E con un testo unico bipartisan, in realtà la Commissione Giustizia della Camera ha varato questo testo, che poi naturalmente farà il suo iter parlamentare, che prevede un anno per il divorzio e due anni in caso di presenza di figli minori. Però molti hanno detto sì, siamo d'accordo, è una norma di civiltà, e altri invece, soprattutto da parte cattolica, non tutti i cattolici, hanno detto è una scorciatoia, aumenterà la piaga in realtà di una piaga sociale che è il divorzio, la poca responsabilità. Il punto di partenza è questo: se tu consideri il divorzio una piaga sociale, anche se dura 30 anni non ti andrà mai bene. Se invece laicamente, per carità, nel massimo rispetto dell'ideologia, della fede, della credenza di chiunque, ma insomma io non credo che la decisione di due persone di lasciarsi e di farla finita lì sia peggiore del dover necessariamente stare insieme e quindi trascinarsi dolori, rancori, angosce e tensioni per tutta l'esistenza. Io poi, insomma, da laico sono favorevolissimo a... In molti paesi del mondo il divorzio è una notazione notarile. Sì, in Gran Bretagna mi pare che neanche sia previsto, cioè si passa automaticamente al divorzio, non si parla, anche in Spagna a pochi mesi. La verità è che se la famiglia funziona, è perché la gente ci si trova bene, non ha bisogno di ricorrere né al giudice né al notaio, ma quando ricorri al giudice o al notaio, sei arrivato alla frutta, perché... prendi atto che la famiglia non funziona, allora è inutile prolungarne l'agonia, secondo me. Lo penso anch'io, anche se capisco le ragioni di chi dice no, lasciamolo a tre anni perché ci possono ripensare, però io dalla mia modestissima esperienza... Sì, questo è vero, non è che nessuno poi gli vieta di rimettersi insieme, lo speriamo, tutti si augurano. Certo, divorziati a vita, se no gli tagliano la testa. Vorrei sapere appunto delle ascoltatrici e gli ascoltatori cosa ne pensano di questa notizia come di tante altre. Per esempio Angela da Bergamo, che chiama all'800240024. Angela. Sì, a proposito del divorzio, della separazione. Sì, se vuoi, oltre alla tua notizia. Che io avrei... sono stata contenta di aver avuto tre anni, perché mi sono servita per organizzarmi, per mettere a posto tutte le cose, e dato che il mio stipendio non era alto, dovevo proprio economizzare anche le spese dell'avvocato e così via. Ah, ecco, però non sei tornata insieme a tuo ex marito? No, assolutamente. Ah, quindi ti è servito per una questione organizzativa, logistico-economica, insomma. Sì, certo. Questo è un altro, quindi un'altra angolazione. La tua notizia qual era? La notizia era questa, che penso che la vera vittoria del governo Monti sia questa operazione trasparenza che sta facendo. È veramente un'operazione, secondo me, importantissima, perché permette, intanto ci fa conoscere gli stipendi vergognosi di questi dirigenti pubblici, che sono veramente incredibili, dato l'inefficienza dei baracconi che guidano o che guidavano. Vedi la polizia che non ha la benzina, vedi le poste, la loro lentezza, la loro incredibile inefficienza, vedi le ferrovie con i treni sporchi, lerci e tutto quanto. Ma soprattutto ha permesso a noi cittadini di aprire gli occhi e di capire che, non so, chi ha dato questi emolumenti così impossibili, e soprattutto che c'era un paese di Bengodi solo per pochi, per i patrizi, mentre la plebe si poneva delle domande su come il debito pubblico potesse lievitare senza mai fermarsi. Certo, era così. Angela, sei stata chiarissima e ti ringrazio intanto. Che ne pensi degli stipendi online, soprattutto di funzionari pubblici e soprattutto del capo della polizia, per esempio? Ma intanto il capo della polizia è un'eccellente persona, certo, fa un lavoro difficilissimo. Senz'altro. Poi io sono molto scettico su queste sparate. Ecco, anch'io mi chiedevo, può essere utile, per esempio, quello dei ministri? Faceva la nostra ascoltatrice, ma insomma, se mi devo scandalizzare, mi scandalizzo di più quando i manager delle banche o delle grandi società di brokeraggio o nella finanza privata affondano le società, determinano decine, centinaia di migliaia di licenziamenti, fanno fallire delle imprese Florido, le comprano per farle fallire apposta e poi si dividono anche i bond. È venuto fuori, infatti, scusa Giancarlo, che fa incazzare leggermente di più, ecco. È venuto fuori, infatti, che i manager, super manager privati prendono infinitamente di più ancora. Certo, dicono non sono soldi pubblici, però sono stipendi poi che magari impediscono a chi sta sotto, chi produce, anche i lavoratori di avere uno stipendio un po' più dignitoso, no? C'è una forbice enorme. Anche Obama, che noi adesso la mettiamo così perché voi giornalisti, posso dirlo, sì, sempre perennemente a caccia della notizia, della sensazione, Manganelli guadagna più di Obama, che scandalo, che schifo, eccetera. No, io non ho detto niente. Vediamolo un po' come, non so, Obama, che con un piano straordinario salva le banche americane, quindi attua una politica di aiuti di Stato che il liberismo, tra virgolette, della comunità europea vieterebbe a tutti i costi, ma parte di quei soldi poi vanno a quegli stessi manager che hanno determinato il fallimento di quelle stesse banche. Insomma, vediamo un po' più complessamente com'è giusto mettere online le dichiarazioni per la trasparenza, giusto che persone in gamba guadagnino molto, giusto indignarsi se non funzionano le cose, non giusto, come dire, sparare nel mucchio, perché poi alla fine la responsabilità è sempre di qualcun altro, non è mai nostra. Tu dicevi operazione trasparenza, no? Scusa Giancarlo, ma per esempio per quanto riguarda i ministri, che da diverso tempo facevano un po' resistenza alcuni, no? Su richiesta di patroni griffi da pubblica amministrazione, cioè, no, bisogna fare la lista dei vostri redditi, eccetera, eccetera. A parte operazione trasparenza, ma poi che risultati concreti, beneficio? Me lo chiedevo anch'io, ma così, proprio... Che beneficio ne trae la collettività? Mm. Dal fatto che vengano divulgate le notizie, nessuno, assolutamente dei ministri, per esempio. Nessuno. Ma qualcuno magari va a dormire più contento, anche forse più livoroso, dicendo ma perché quello deve guadagnare tanto, magari dimenticando appunto che fare il capo della polizia non è esattamente lo stesso, e lo dico dal mio punto di vista, neanche che scrivere qualche sentenza o avere un ruolo anche di responsabilità come quello di un magistrato. Il capo della polizia è il capo della polizia, cioè il responsabile principale dell'ordine pubblico in Italia. Possiamo discuterlo se non va bene, possiamo anche abbassarglielo lo stipendio se siamo investiti da una necessità di risparmio e di taglio per tutti quanti, però scandalizzarsi perché chi è in una posizione apicale ha un riconoscimento anche economico di questa posizione apicale non mi pare, non mi pare neanche tanto socialmente utile. Ecco. Mario da Verona, 800 24 00 24. Mario. Sì. Stai parlando dal tunnel dei neutrini? Dove sei, Mario? No, aspetta, ecco. Ti sento meglio, sì, adesso. Sì, meglio, sì. No, la mia notizia è riferita ai due operai, ai tre operai della Fiat. Che sono stati reintegrati. Sì, ufficialmente, ma l'azienda ha comunicato che non vuole... Che gli paga lo stipendio, ma non li vuole vedere in azienda. Sì, io ritengo, insomma, anche alla luce di tutta la discussione sull'articolo 18... che sia veramente molto pericoloso, ecco, perché dovrebbe far vedere a tutti i lavoratori quali sono le... Ma stai giocando con i tasti, Mario, non metterlo sotto, sì, ti sei seduto sopra. Sì. Ecco. Pronto? No. Aiutiamo Mario un attimo a ricomporsi, tanto abbiamo tempo, ancora diciamo quei pochi secondi. Mario, ci sei? Sì, io ci sono. Adesso stai buono, per favore, non impastare la pizza mentre stai parlando in macchina. Sì. Quindi stavi dicendo che sulla questione dei tre operai Fiat reintegrati, ma che la Fiat non vuole rivedere nei propri stabilimenti? Sì, no, dicevo, a parte che dimostra, insomma, un'arroganza da parte della Fiat, insomma, eccessiva, perché vuol dire non rispettare in ogni caso la decisione di un giudice. E comunque credo che dovrebbe far capire a tutti i lavoratori il vero pericolo della questione dell'articolo 18. Tanto dibattuto, diciamo, in queste ultime settimane, in questi mesi. Mario, ti lascio alle tue attività. Cosa stavi facendo? Ti sei fermato un attimo in una superstrada col bolide? Sì, esattamente. Senti, allora accompagnami con l'ascolto e adesso sentiamo Giancarlo De Cataldo che cosa ne pensa di questa cosa, va bene? Buon viaggio, Mario. Sì. Grazie. Ciao Mario. Che dici Giancarlo? L'altro giorno parlavo con un amico imprenditore, gli dicevo ma tu lo sai che abolendo l'articolo 18non si muoverà, non si guadagnerà un'assunzione in più. Anche secondo me, lo dico da... E lui mi ha detto sì, è vero, ma è un fatto fortemente simbolico. L'imprenditore deve sapere che ha il controllo della situazione. E allora su questo ha ragione Mario, è un problema di arroganza. Io voglio essere il padrone e te lo dimostro a differenza di tutto. Perché? Perché, attenzione, secondo lo schema del capitalismo classico sono colui che ha investito del proprio e che rischia del proprio. Ma la domanda è: quanti imprenditori italiani, mano sul cuore o sulla coscienza, possono dire di fare questo, investire del proprio e rischiare del proprio tutti i giorni, secondo lo schema che dovrebbe essere classico dell'impresa, e non piuttosto piangere per gli aiuti di Stato nei momenti di crisi e portarsi i soldi all'estero nei momenti di guadagno? Beh, mi hai lasciata senza parole, Giancarlo Di Cataldo, anche se io lo ripeto, che anch'io non capisco, sarò ignorante su questa cosa, quanto l'articolo 18, che tra l'altro non significa che non si possa licenziare nelle aziende dove ci sono più di 15 dipendenti, ma non si può licenziare senza giusta causa, cioè se c'è discriminazione allora c'è poi tutta la causa, il reintegro eccetera eccetera, ma non è che non si possa licenziare. Ma al di là di questo, astraiamoci per qualche istante, perché sapete che questa è l'unica trasmissione al mondo, in tutto l'universo, che ha un collegamento anche con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Qui da Marte, a scrutare ogni settimana il globo terracqueo, ci si rende conto che esiste un considerevole spread tra il bisogno di certezze e le certezze effettivamente reperibili in giro. Un colpo durissimo a questo spasmodico bisogno è stato assestato in questi giorni dai famigerati neutrini, i quali correvano velocissimi nel tunnel italico dalle Alpi agli Appennini, magnificato dalla Gelmini, correvano così lesti da poter affermare con esultanza che la velocità della luce ormai gli faceva un baffo ai neutrini, campioni del mondo, anzi dell'universo. Ma poi la certezza raggiunta si smonta, si scopre che lo strumento di misura svarionava, oppure più semplicemente, visti i tempi, si capisce che i neutrini erano dopati. Del bisogno di certezza sono altresì mossi, da questo bisogno di certezza, i parlamentari italici, quando tentano di collocare il tecnico presidente del Consiglio, Monti Mario, in un preciso orientamento politico. È di destra? No, è di sinistra. Dice il PD, non possiamo lasciare Monti alla destra. E Berlusconi replica, tutto si può dire di Monti, tranne che sia una persona di sinistra. Insomma, sembra si discuta del sesso degli angeli, come del resto in altre occasioni. Organi sono fatti per ricevere, sono stati costruiti così, altri che sono fatti per espellere. E hanno anche una serie per espellere. Di scene molto molto delicate, non so se è il caso di parlarne radiofonicamente, ma sa che ci sono anche dei problemi di batteri, eccetera, eccetera, che richiedono una grande attenzione nei momenti in cui si fanno certe pratiche, onde evitare malattie, eccetera, eccetera. Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Lasciamo il sesso degli angeli, ritorniamo con i piedi per terra. Senti, leggevo adesso sul Corriere Online, ecco, adesso mi è sfuggito questo computer, io ho proprio un rapporto, diciamo un'idiosincrasia, ecco, diceva che Monti ha annunciato Bocconi, presto tornerò da te. Questo significa che non ha intenzione, nonostante sia tirato da una parte e dall'altra, di continuare. La storia secondo me avrà sviluppi interessanti, anche perché Giancarlo De Cataldo, hai sentito che adesso lo candidano di qua, lo candidano di là, mentre la Padania scrive oggi 100 giorni da incubo, il sacco del Nord. E Maroni dice c'è il rischio che i partiti spariscano, perché questo si tenta di creare una società post-democratica. Che idea ti sei fatto, Giancarlo? Se la Padania parla di 100 giorni da incubo, vuol dire che per me sono stati 100 giorni bellissimi. Non me ne sono accorto fin in fondo. Però per contrasto con quello che dice la Padania, mi proclamo montiano in questo momento. Sì. No, adesso battute a parte, Monti piace moltissimo alle mie amiche di sinistra, specialmente alle signore, finalmente riconoscono uno stile, un'eleganza, una compostezza che avevamo ormai dimenticato e perso. E questo però piace molto anche a qualche amica di destra che in fondo si sente un po' rivalutata come dignità femminile. Siccome le donne sono estremamente importanti, credo che decidano il voto, alla fine in questo paese Monti probabilmente è solo di Monti e può darsi che abbia un luminosissimo futuro. E noi glielo auguriamo, ovunque preferisca andare, con qualsiasi cosa si decida. Prima di una breve pausa, poi sulle donne voglio chiederti un'altra cosa, se riusciamo a avere tempo. Gennarino da Monza all'800 24 0024. Quale sarà la notizia di Gennarino? Qual è? Salve. Ciao Gennarino. Eccoci. Ok. Siamo qui. Niente, io ho sentito parlare adesso dei vari stipendi del commissario Manganella piuttosto che di altri dipendenti pubblici, però quello che mi rimane sempre più assurdo sono tanti come soldi, però gente come dei nostri ministri come Profumo e Passera che da privati hanno frodato lo Stato per 2.500 miliardi di soldi dei privati, nessuno ne parla, abbiamo messo dei frodatori dello Stato a dirigerci e questa è una cosa assurda perché hanno rubato anche i nostri soldi questi signori. Poi sono andati con Equitalia, hanno concordato il 17, il 30% di restituzione, ma quei soldi lì dal 2005 al 2009 erano di tutti noi cittadini e questo è il grave e nessuno ne dice niente, anzi si permettono il lusso di criticare adesso le altre persone. Bisognava fare un esame di coscienza prima di fare determinati passi. Quindi tu ritieni che questi stipendi siano ingiusti, iniqui, che queste persone, secondo me, mi sembra un po' esagerato dire che abbiano, insomma, non so cosa ne pensa Francesco, Giancarlo De Catà, dove vedevo Francesco in attesa. Grazie Gennarino, ti sembra una cosa un po' esagerata, che ne pensi tu? Prenderei le distanze dagli insulti e dalle accuse personali quando non sono provate o non probabili, questo anche certo. Nell'interesse, diciamo, della trasmissione di tutti. E poi io quello che pensavo l'ho già detto, insomma, non sono assolutamente contrario a retribuire come si deve le persone che sono in situazioni apicali. Quello che occorrerebbe è la consapevolezza e quando si sbaglia si può e si deve, adesso non dico pagare perché anche lì ci sono tutta una serie di equivoci, ormai c'è questo modo, chi sbaglia paga, sbaglia paga, ma perlomeno farsi un giretto in purgatorio prima di passare immediatamente da un potere a un altro, ecco, forse sì. C'è Angelo da Milano all'800 24 0024, poi c'è Andrea da Prato. Che dici Angelo? Qual è la tua notizia? Buongiorno a voi. Beh, io volevo commentare, io sono un manager, sì? E oltre ad essere manager faccio da 18 anni questo lavoro, sono anche un consulente. Ho grande stima di De Cataldo, però mi sento, sono rimasto un po' così basito rispetto ad alcune dichiarazioni, due ordini di motivi. Primo. Io da manager percepisco degli emolumenti sulla base dei risultati che riesco a dare all'azienda per cui lavoro e nel caso in cui sbaglio pago perché è il mercato che mi fa pagare e non produco debito pubblico. Secondo, quando un manager pubblico riesce a frodare lo Stato o riesce ad usare fondi che non dovrebbe usare, c'è quasi sempre la complicità di un funzionario pubblico. Terzo, rispetto all'articolo 18, io ho curato quasi 400 aziende nei miei 18 anni di carriera come consulente e posso testimoniare che è vero, non vi è una rilevanza diretta tra abolizione dell'articolo 18 e assunzione, però è anche vero che grazie all'articolo 18 tante aziende potrebbero liberarsi di fannulloni che impediscono alla gente che vuole lavorare di lavorare bene. Quindi queste generalizzazioni non fanno bene alla informazione, alla capacità di poter vedere il fenomeno nel suo ambito sistemico. Angelo, però scusami se ti interrompo, no? Rimani in linea. Volevo dirti questa cosa, se è comprovato, ci saranno anche delle testimonianze, no? Che uno è fannullone o che è un ladro, che non lavora come deve, eccetera, c'è la possibilità di licenziarlo. È chiaro, no, che però se non c'è... Scusa Angelo, aspetta, è chiaro che però se non c'è una tutela a questo, come poi si può decidere quale sia il criterio per licenziare o no un dipendente, capisci? C'è anche questo rischio di dire... Ma ci mancherebbe, ma un discorso è regolarizzare, un altro è fare ancora leva su un articolo che è nato agli inizi dello sviluppo industriale in Italia per tutelare dai padroni gli operai, oggi è un mondo diverso. Cioè? Cos'è che è diverso? Cosa succederebbe nel caso? È diverso alla capacità del singolo cittadino di accedere all'informazione, di acculturarsi, quindi anche di gestire la propria vita rispetto a determinati e potenziali abusi. Sì, ma se vogliamo riformarlo, riformiamolo, ma non teniamolo così com'è. E come lo riformeresti tu? Cosa fai una proposta, visto che sei un manager che ha avuto a che fare? Farei in modo, ad esempio, che se un lavoratore ha 80 lettere di segnalazione, 80 lettere di segnalazione, da manager e persone diverse, il giudice dovrebbe porsi il problema di capire se forse non è lui ad essere vittima di un complotto, ma non ci siano delle basi fondanti per capire se questo qui sta boicottando l'azienda. Che come è finita questa storia? O è ancora in corso? Purtroppo è stato reintegrato più volte e continua a stare lì. Tanto per fare un esempio, ecco, Angelo, potrei citarne a centinaia. Angelo, non ti chiedo lo stipendio, non ti chiedo lo stipendio perché naturalmente non stiamo pubblicando on radio, on air, diciamo che ti trattano bene, ecco, per quel lavoro che fai. No, mi tratto bene. Ti tratti bene. Grazie ai risultati che io porto, che ho il mio stipendio. Molto bene, complimenti. Ci mancherebbe, Grazie, continua all'ascolto, naturalmente non ci sono più le mezze stagioni, tutti i sabati, lo sai da che ora a che ora? Sì, conosco, ascolto molto, anche per lavoro ascolto molto Radio 24. Ma non ci sono più le mezze stagioni? Da che ora va in onda il sabato? Dunque, credo che adesso è la seconda volta che vi sento, comunque da mezzogiorno alle 2, una roba del genere, o no, forse anche di più. Le 2 sono passate, decurterei un po' il tuo stipendio in base a questa defiance, ma vabbè, ti perdono Angelo, ciao. Ciao. Giancarlo De Cataldo, che dice di questa obiezione del manager Angelo? No, io apprezzo, intanto apprezzo il tono, nel senso che si può discutere di tutto, ci mancherebbe, il fatto delle 80 lettere di segnalazione mi fa pensare che come sempre o quasi sempre accade nel caso dell'articolo 18 siamo nei casi limite, poi ogni caso naturalmente è diverso dall'altro, ma sulle generalizzazioni una piccola battuta me la consento, perché la parola fannulloni è esattamente una di quelle parole che vengono evocate quando, come dire, si vuole sparare nel mucchio, che è poi appunto l'oggetto della mia critica di prima, quindi il manager guadagni e faccia guadagnare benissimo, sulle virtù taumaturgiche del mercato qualche perplessità, considerando che le previsioni degli economisti negli ultimi anni sono, credo, ripetutamente tutte state clamorosamente smentite, cioè ogni volta si diceva siamo fuori dalla crisi, poi c'eravamo dentro, ogni volta, insomma, come dire, considerare l'economia una scienza esatta come la matematica pura o la fisica mi sembra un po' azzardato, ci proviamo, ci muoviamo un po' tutti attentoni e cerchiamo di uscire da un momento di difficoltà, ecco. E poi, sapete, questo discorso tra manager pubblico e manager privato, i soldi pubblici, i soldi privati, gli esempi che io facevo prima erano esempi di quelli manager, e parlavo di americani tra l'altro, che hanno trascinato alla rovina le loro aziende e ci hanno guadagnato. Sì, casi, che non vuol dire attaccare la figura del manager, ma semmai riflettere su alcuni dei tanti paradossi della nostra società. 800 24 00 24, Giuseppe da Caserta. Buonasera, ascolti, ascolto, due sì. Piccole spunti di riflessione. Sì. Il primo, la decurtazione dei tempi di attesa per il divorzio, probabilmente sarebbe stata possibile già ottenerla qualche tempo fa, oppure se non avessimo sempre presente l'ingerenza comunque del Vaticano all'interno del nostro paese. E questa è la prima. La seconda, soprattutto per il dottor De Cataldo, un suo commento al fatto che una delle più importanti categorie professionali, come quella che lui onorevolmente rappresenta, credo sia l'unica a non avere nessun tipo di responsabilità caso di malaugurato errore e quindi di non avere, diciamo, quella copertura assicurativa di responsabilità civile che è prevista per errori professionali che possono capitare ai migliori, a tutti, e che in tutte le professioni sono coperte dal mondo assicurativo, tranne che quella del magistrato. Soltanto questo. Grazie, vi ascolto per telefono. Grazie Giuseppe, ascoltaci. E questa è una storia che diciamo, ha suscitato diverse polemiche ultimamente. Era passato un emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati che in realtà dicono abbiamo già una nostra responsabilità, ma non si può intimidire così uno che deve mettere una sentenza. Che ne pensi, visto che sei chiamato in causa? Beh, è ovvio, insomma, io la penso esattamente così. Tra l'altro facevo una riflessione. Intanto non è vero. La pensi così come ho detto io, come ha detto l'ascoltatore? No, come dici tu, ovviamente. No, dico ovviamente perché qual è l'argomento che viene usato? Non volete pagare, chi sbaglia paga. Io sono tendenzialmente convinto che anche il medico come soggetto individuale che opera sotto la minaccia di pagare di tasca propria, cioè non la struttura ospedaliera o la disorganizzazione del sistema sanitario nel suo complesso, ma il medico stia virando verso la cosiddetta medicina difensiva, cioè ti abboffano di analisi perché nessuno si assume il rischio di una diagnosi. Se questo è uno degli effetti della monetizzazione della responsabilità, perché è così che si chiama in termini tecnici, il fenomeno è un effetto deleterio per la società, cioè gli uomini vivono peggio. Applicato alla giustizia, che è attività di interpretazione, porta a delle conseguenze, come dire, anche queste paradossali. Certo, io mi faccio un'assicurazione e sono coperto. Dopodiché, quando devo giudicare tra un ricco e un povero, la butto lì giù brutalmente, ma insomma, questo è il tenore del discorso ormai in Italia. Chiaramente tenderò a dare ragione al ricco perché ho molto meno da perdere che dando ragione al povero. Se un mio collega ha sbattuto dentro uno e io avrò difficoltà a tirarlo fuori perché lo sto pregiudicando, e così via. Gli argomenti sono molto, molto vasti e molto diffusi. Vi faccio un esempio. Qualche giorno fa l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea di Giustizia per le espulsioni di massa verso la Libia. Sì. Allora, quei profughi che hanno fatto ricorso avranno diritto a un risarcimento di danni. Quindi lo darà il risarcimento di danni lo Stato italiano come entità impersonale. Se andassimo ad applicare la stessa logica dell'emendamento Pini, quello sulla responsabilità dei magistrati, dovrebbero pagare i deputati che hanno votato a maggioranza una legge incostituzionale secondo la giustizia europea, il ministro Maroni, che quella legge ha fortemente voluto e che tutta la politica sui respingimenti ha applicato e diciamo ne ha fatto una battaglia personale e via dicendo. È esattamente la stessa logica. Ora voi immaginate il singolo deputato chiamato a pagare per una legge poi disapplicata dalla Comunità Europea. È esattamente lo stesso che si dice dei magistrati. Riflettete se è una politica intelligente, se può portare a delle conclusioni intelligenti e utili per tutti soprattutto. Giuseppe da Palermo. Ciao. Ciao Giuseppe. Salve, io volevo intervenire a proposito di due aspetti legati al fatto delle retribuzioni d'oro, diciamo, di alcuni manager. Il primo aspetto è che, al di là del fatto che un manager adesso guadagna molto, molto di più rispetto al salario di un operaio, e se secondo me questo è il motivo, diciamo, che ha portato negli ultimi anni il sistema capitalistico un po' a sballare, per così dire, perché anche non avendo dati alla mano, però penso che 40-50 anni fa l'amministratore delegato di Fiat non guadagnava migliaia di volte rispetto in più. Sì, la forbice si è allargata senz'altro negli ultimi anni. Quindi, però dico, sul campo privato può essere, diciamo, un discorso così opinabile, perché voglio dire, alla fine l'azienda è privata, tu manager mi garantisci profitti e io ti pago quanto voglio. Il problema nasce sul discorso del pubblico, perché al di là dei profitti che sono relativi e da vedere sotto aspetti diversi, è vero pure che poi paragonando stesse cariche dello Stato italiano con altre nazioni, vediamo forbici in questo caso assurdamente diverse, come per esempio l'altra sera ascoltavo la Zanzara dove è intervenuto il professor Lutwak, diceva praticamente che il capo dell'FBI guadagna $175,000 l'anno, piuttosto che il nostro Manganelli che ne guadagna €600,000. E allora a quel punto uno si rende conto, dice, ma dove andiamo? Perché c'è troppa differenza rispetto alle altre nazioni, come altre cariche politiche, anche di funzionari dello Stato. Questo era il discorso, diciamo, legato alle retribuzioni che può recriminare il cittadino. Il cittadino, paragonandosi alle altre nazioni, dice, non vedo perché, parlava pure per esempio del capo di Stato Maggiore della Difesa americana, che ha sotto di lui 3 milioni di soldati, guadagna qualcosa come $280,000, questo presso il lutto. Sì, dicevi le proporzioni, quindi, insomma, tra un paese e l'altro. Le proporzioni sono assurde, invece il ministro della difesa attuale prende una pensione provvisoria di €320,000. Chiarissimo Giuseppe, hai fatto un lungo elenco, ti ringrazio. Molto brevemente, perché abbiamo di nuovo la viabilità, Giancarlo De Catado, si poneva il problema, no, di questa differenza, di questo spread, ecco, tra le retribuzioni. Sì, vorrei saperne di più, cioè vorrei sapere quanto lo Stato americano mette a disposizione del capo dell'FBI, che se gli dà la casa, che tipo di agevolazioni e di facilitazioni gli permettono di vivere la vita anche di rappresentanza che deve vivere chi rappresenta lo Stato e le sue articolazioni più importanti nei momenti decisivi della vita politica, pubblica, economica della nazione. Sento un troppo odore di demagogia qua sotto. Tra l'altro, se la critica viene da Luttwak, che è uno dei massimi esponenti della destra, diciamo più destra americana, che ha fatto del privilegio la bandiera della sua esistenza, mi sembra una critica un po' un tono spada d'assalto. E rientriamo subito con un collegamento, come vi avevo annunciato all'inizio, qui non ci sono più le mezze stagioni, ci potrebbe essere la sentenza Mills, abbiamo la nostra inviata Raffaella Calandra al Tribunale di Milano. Raffaella. È stata appena emessa la sentenza, i giudici hanno stabilito il non doversi procedere per Silvio Berlusconi perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Dunque la prescrizione stabilisce, interviene nel processo Mills e i giudici non si pronunciano nel merito delle accuse per corruzione in atti giudiziari perché è intervenuta la prescrizione. Dunque la prescrizione ferma il processo. In questo momento i giudici sono andati via dall'aula, raccoglieremo immediatamente i commenti da parte degli avvocati Nicolò Ghedini, Piero Longa e eventualmente anche della PM e poi ci riaggiorneremo nelle prossime edizioni di GR24. Bene, Roberta. Grazie Raffaella Calandra dal Tribunale di Milano, quindi l'avete sentito proprio in tempo reale che come è andata a finire, come del resto già gli avvocati di Berlusconi, lo stesso Berlusconi, avevano annunciato nei giorni scorsi. Che vuoi fare così un commento a caldo, visto che è successo adesso, Giancarlo De Cataldo? Mi pare che nel nostro ordinamento la prescrizione non significhi non entrare nel merito, ma significhi dire siamo entrati nel merito, non era innocente ma abbiamo fatto tardi. È sicuro che vuol dire non era innocente ma abbiamo fatto tardi, oppure poteva essere uno e l'altro ma abbiamo fatto tardi? No, credo proprio che, come, non so se vi ricordate il caso Andreotti, perché credo che nell'altra ipotesi non ci sarebbe dovuto nemmeno essere il processo se la prescrizione fosse intervenuta prima dell'avvio dell'azione penale. Quindi naturalmente, come si dice in questi casi, attenderemo le motivazioni della sentenza per seguire l'iter logico dei giudici. Attenderemo, mentre non possiamo più attendere, con la nostra Maria Laura Rodotà che ci dà la sua spigolatura da dove si troverà in questo momento. Maria Laura, commentatrice del Corriere della Sera. Una dichiarazione estrema, si può fare di moda. Oddio, oddio santo, ecco, vabbè, tanto ho avuto già abbastanza guai, dilla pure. Sì. No, io non difenderei Lucia Annunziata neanche se mi estinguesse il mutuo per aver detto una cosa terribile da Santoro che avrebbe difeso Celentano anche se avesse chiesto di mandare i gay nei campi di sterminio. Sì, è la frase più cretina che poteva dire Lucia Annunziata. Ma peccato, perché è una donna intelligente. Sì. Ma io mi chiedo, ma è diversamente intelligente, non ce ne eravamo accorti, è eticamente strana, voleva farsi pubblicità, ma io vorrei dire, ma perché le associazioni gay hanno accettato di venire andare a un programma dell'Annunziata? Sì, lei per scusarsi ha detto che andranno alla sua ma in un paese normale chi fa una dichiarazione del genere verrebbe costretta a dimettersi o verrebbe sospesa o licenziata dalla TV di Stato per la quale tutti con chiunque vadano a letto pagano il canone. No. Non lo so, tu che dici? Dico che hai fatto bene a ricordarlo, anche se poi lei si è scusata, ma bisogna stare molto attenti, cioè che c'entrano certe metafore. Già tra l'altro sono due settimane che si va avanti sulla questione omosessuale, diritti civili eccetera, dalla mia trasmissione in poi dell'11 febbraio in particolare, c'è stata una concentrazione in queste settimane, e dirlo tra l'altro proprio in questo momento, mai dirla una cosa assurda del genere, è proprio, come si può dire, proprio deficiente questa cosa, tantomeno in questo momento. Si è scusata, è vero, almeno si è scusata, però sì, ma non è venuto in mente di dire se avesse detto mandiamo gli ebrei o i neri nei campi di concentramento. Certo, quindi uguale, è un problema uguale alla radice. Sì. Forse siamo d'accordo su questo, siamo perfettamente d'accordo, Maria Laura Dottà, anzi dovrebbe un po' più scusarsi pubblicamente, a parte avere poi le associazioni gay in trasmissione Lucia Annunziata, perché sennò davvero possiamo avere il dubbio che sia diversamente intelligente, come dici tu. Secondo me è una donna intelligente, però veramente pensarci un attimo di più prima di usare la lingua in modo inopportuno. Grazie Maria Laura. Grazie a voi. E adesso andrei anche a un altro argomento, ma con il prossimo nostro, la prossima incursione della nostra linguista della sapienza di Roma, Valeria Della Valle. Sapete, ci sono state, si continua sulle liberalizzazioni, emendamenti, cose varie, eccetera. Addirittura c'è stato un fenomeno al Senato di un sacco di lobbisti, proprio chiamati così, che andavano a sedersi nei corridoi ad aspettare, a fare le file, perché dovevano fare le loro pressioni sulle questioni di liberalizzazione, che siano i tassisti, le farmacie, avvocati, notai, eccetera, eccetera. E molti dicono in questi giorni, insomma, questo governo governo si sta muovendo un po' così, un po' troppo impacciato su questa questione. Addirittura hanno dovuto chiudere fuori i lobbisti in una stanza, tanta pressione facevano. Vogliamo parlare di lobby allora, Valeria Della Valle? Perché credo che pochi sappiano da dove viene la parola. La parola è ovviamente inglese, ma aveva in origine un significato completamente lontano e diverso, che è questo: passaggio coperto in un monastero. Questa parola poi a sua volta derivava da un'antica parola latina che era laubia e che voleva dire loggia. Poi da qui è nato il significato: dal monastero siamo passati alle banche, quindi ci stiamo avvicinando, e il primo significato ufficiale, ma senza connotazione negativa, è stato quello di salone principale all'interno di una banca, quella dove si svolgono le operazioni di sportello per il pubblico. E poi da qui nel Novecento si è sviluppato un nuovo valore figurato, che è quello col quale abbiamo a che fare oggi, e cioè gruppi di persone, dei lobby, che sebbene estranee al potere politico tendono a influenzare fortemente le scelte politiche in materia economica e finanziaria. Ecco, allora tutta questa storiellina per dire che d'ora in poi chi ci avrà ascoltato, forse ogni volta che sentirà parlare di lobby o di lobbisti, potrà ripensare a quel lontano significato pieno di misteri e di ombre, no? Il passaggio segreto, il passaggio coperto in un monastero, evoca un po' il nome della rosa, che però forse, se ci pensiamo bene, con le lobby ha ancora a che fare. Grazie alla nostra Valeria Della Valle. Grazie. Arrivederci. Grazie, buona continuazione. E volevo ricordare anche a Giancarlo De Cataldo, molto brevemente, visto che è stato uno dei primi a usare questo termine in Italia, oltre alla scrittrice Barbara Spinelli, femminicidio. Adesso anche l'ONU dice che in Italia è un fenomeno terribile. Una donna uccisa ogni 3 giorni dal marito, ex marito, dal partner, eccetera. Le Nazioni Unite ci sollecitano a intervenire. In Italia è la prima causa di morte, ma anche in Europa, per le donne tra i 19 e i 44 anni, essere uccisa in questo modo. Volevo proprio un commento di pochi secondi, perché purtroppo, Giancarlo, tra poco ci dobbiamo salutare. Certo, il nostro è un paese che rivela ogni tanto in modo inquietante un sostrato omofobo e un sostrato tradizionalista antagonista ai ruoli emergenti femminili, anche emersi, non necessariamente, ecco, emergenti. Per chiudere invece un po' più leggermente, ma tanto sanno le ascoltatrici e ascoltatori che torno continuamente su questo argomento, anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, volevo chiederti, visto che ci dobbiamo lasciare definitivamente il 21 dicembre 2012, sai che la Terra esplode, finisce e quindi non c'è, cosa salveresti della produzione umana, della cultura umana, dei paesaggi umani? Una cosa che tu vorresti lasciare in eredità a chi dovesse venire dopo, per esempio, da qualche pianeta? Una cosa da lasciare in eredità? Sì, questa era la civiltà umana. Sì. Che domanda terrificante, l'inno alla gioia della nona sinfonia di Beethoven. Bello, bellissimo, grazie Giancarlo De Cataldo di questo regalo col suo libro Ingiustizia. Ci sentiamo sabato prossimo dalle 14 alle 15. Potete risentire la trasmissione sul sito di Radio 24, sulla pagina Facebook della trasmissione. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.